Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Avete mai pensato di aprire la vostra cucina di casa a ospiti paganti? Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, la rassegna estiva di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, prosegue con un altro dei temi che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, i piccoli business domestici. Scopriamo poi chi sono i consumatori multicanale, i cosiddetti consumatori reloaded, e quanto siano strategici per le aziende. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo del volantino, strumento di promozione antico ma efficace. E per il focus sui trend, infine, di pop marketing, quando la raccomandazione fa tendenza. Scopriremo in che senso, non allarmatevi, nella seconda parte. La borsa della spesa. Guadagnare con la propria casa. Complice la crisi, sono sempre più diffuse le opportunità di realizzare tra le mura domestiche attività che diano luogo ad entrate integrative. Dai set in casa per le riprese di un film o di uno spot, al bed and breakfast, fino alle lezioni di cucina e ai pranzi in famiglia. Ne ha scritto recentemente anche Il Sole 24 Ore. Noi oggi vogliamo concentrarci proprio su quest'ultima formula, un fenomeno che si inserisce nella tendenza che fa del ritorno alla domesticità il proprio valore aggiunto. Vedi i cosiddetti negozi casa, il boom delle vendite a domicilio, gli swap party e gli house concerts, i concerti in casa. L'idea di aprire la cucina di casa a ospiti paganti, soprattutto stranieri, sta avendo molto successo. Nel mondo si parla di underground restaurant o ristoranti segreti. Ce ne sono alcuni di culto a Londra, Berlino, Vienna, Buenos Aires. Tra i primi a sviluppare il filone in Italia, Home Food, il circuito che riunisce 500 padroni di casa chiamate le Cesarine. Pranzo in famiglia in Italia, ha scritto recentemente il New York Times, è una delle esperienze da provare almeno una volta nella vita. L'ideatrice Egeria Di Nallo ci spiega come funziona. I soci di Home Food, e per essere soci bisogna essere persone da bene, cioè saper andare a casa delle persone e pagare una quota di 35 euro annuali. Ecco, i soci di Home Food hanno la possibilità di andare a mangiare a casa di signore che si chiamano Cesarine e sono socie anche loro di Home Food, che cucinano un pasto che intreccia la storia della Cesarina con la storia del territorio. Ogni Cesarina sceglie un menù che è sempre quello. C'è una brochure che introduce a questo percorso e l'esperienza è l'esperienza non del ristorante, ma è l'esperienza del pranzo in famiglia. Un po' come una volta per i meno giovani quando si andava dai parenti, ed è un'esperienza forte perché io vedo che soprattutto gli stranieri l'apprezzano molto e ne escono veramente arricchiti. I vari Mary, John e Margaret, quando si siedono al tavolo di una Cesarina e diventano essi stessi come parte della famiglia, si crea quella che io chiamo una famiglia glocale, in cui prendono il buono della famiglia, le belle tovaglie, le belle stoviglie, il buon mangiare, il ricordo della zia Corinna, e non si prendono gli svantaggi della famiglia che tutti conosciamo. Il cibo è un sedimentato di esperienze che si perdono nel tempo, ecco. Dice Babette, ci sono voluti generazioni per gustare un pranzo come questo, ma non tanto per farlo, ma anche per gustarlo. Quindi noi proponiamo un gusto che non è un'educazione al gusto da laboratorio, ma è un'educazione al gusto entrando nelle radici del cibo. Dio sia lodato, tutti i cibi sono arrivati in perfette condizioni. Ma quali cibi, Babette? Gli ingredienti per il pranzo. Pour le dîner français? Sicuro che quello non è vino? È Clos Vougeot 1845. Chez Philippe rue Montorgueil. Abbiamo le persone che abitualmente, almeno un paio di volte al mese, vanno dalle Cesarine. Quelli che poi si muovono per l'Italia hanno già i loro punti fissi, quando vanno a Venezia vanno da una Cesarina, quando vanno a Roma, eccetera. Beh, si divertono anche molto, insomma, si divertono come forma di diversità, se hanno poi degli ospiti ce li portano, è diventato un po' un modo alternativo che si integra con quello dei ristoranti, perché tenete conto che una cesarina può avere al massimo, sul suo tavolo porta 8-10 persone, quindi non fa assolutamente concorrenza ai ristoranti, ma aiuta anzi a far venire stranieri che poi vanno anche ai ristoranti. Credo che abbiamo più una frequenza maggiore di stranieri che prenotano addirittura un anno per l'altro. Meno di un mese fa è uscito sul New York Times Travel, è uscito un articolo per un posto per 2 o 3 cesarine che stanno in un posto sperduto dell'Abruzzo, 450 abitanti. Dopodiché si è scatenato una pioggia di mail, credo 2500-3000 mail di persone che prenotano in quel posto. Sarebbe interessante anche per noi, perché ci accorgeremmo che l'Italia è molto meno disordinata, insomma molto meno fra virgolette svaccata di quello che normalmente si pensa, cioè che le famiglie sono ancora le famiglie, che nelle case si mette ancora la tovaglia, che ci sono ancora, diciamo, le stoviglie buone, che c'è ancora tutto un tessuto familiare italiano che spesso noi dimentichiamo che ci siano. Mi ricorderò sempre un giovane che eravamo andati da una cesarina qua di Bologna, quando ci ha detto: vengo da un altro mondo. Cioè aveva fatto un'immersione in una realtà, in valori eccetera, che lo avevano arricchito e di cui si era reso conto della diversità. Oggi per il nostro giro di shopping compriamo qualcosa online oppure ci informiamo in rete sul prodotto che vogliamo comprare, ci confrontiamo con altre persone sui blog e social network e poi magari decidiamo di andare in negozio a comprarlo, oppure andiamo in negozio, lo guardiamo bene e poi lo compriamo in rete ad un prezzo più vantaggioso. Diventiamo, insomma, magari lo siamo già da tempo, dei consumatori reloaded, multicanale. Sono i consumatori al centro di una vera e propria rivoluzione monitorata per il terzo anno consecutivo dall'Osservatorio Multicanalità, una ricerca condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Nielsen e con Nexia. Hanno superato quota 20 milioni i consumatori italiani multicanale, quelli cioè che interagiscono con più canali di comunicazione, TV, radio, giornali, internet e telefonino, per quanto riguarda gli acquisti e la relazione con la marca. Rappresentano il 40% della popolazione italiana. Si dividono in due categorie, reloaded e open-minded. I reloaded sono quelli più propriamente multicanale, fortemente coinvolti nei processi di realizzazione con le aziende e gli altri consumatori, veri e propri attivatori di dinamiche virali. Vengono quantificati in 8 milioni e 600 mila, il 17% della popolazione italiana, in crescita del 19% rispetto al 2008. Gli open-minded sono 11 milioni e 800 mila, più 4% sul 2008, il 23% della popolazione italiana. Rispetto ai primi hanno un profilo più individualista, non condividono cioè le proprie valutazioni con le aziende e con gli altri utenti consumatori, non sono così attenti al prezzo e alle promozioni e sono più fedeli alla marca. Tutti i consumatori multicanale, più che la convenienza negli acquisti, ricercano un buon rapporto qualità-prezzo, il cosiddetto value for money, e non comprano prodotti solo per la curiosità di provarli, come fanno spesso i consumatori tradizionali. Web e passaparola sono i punti fermi per la ricerca di informazioni prima di decidere un acquisto. I reloaded considerano internet il mezzo migliore per informarsi e il più efficace per la pubblicità, a differenza degli open-minded che, anche se di poco, per gli spot prediligono la TV. Multicanalità, orgoglio o pregiudizio? Il claim della ricerca. In che senso? Lo abbiamo chiesto a Giuliano Noci, ordinario di marketing al Politecnico di Milano. Fa riferimento a due considerazioni di fondo, che il contesto dei consumatori della popolazione italiana evolve sempre più verso un atteggiamento multicanale innovativo rispetto al mondo dell'offerta. Come riportato nella scheda, oltre il 40% degli italiani di fatto si pone nei confronti delle imprese in modo nuovo. E in questo senso parliamo di orgoglio. Pregiudizio. Beh, in qualche modo il sistema delle imprese è ancora un attimo al palo. Se crede che la multicanalità sia un approccio vincente per il futuro, Tuttavia ancora molteplici difficoltà si riscontrano, poche sono le imprese che hanno veramente perseguito una strategia multicanale rispetto alla domanda. Il consumatore multicanale è un consumatore co-creativo, questo l'aspetto su cui le aziende devono fare leva. Significa che esprime una propensione sempre maggiore a creare contenuti, a contribuire in modo attivo rispetto all'impresa. Sono consumatori che danno idee sul nuovo prodotto, sono consumatori che danno idee sulle nuove campagne di comunicazione che vorrebbero ascoltare. In questo senso co-creano, in questo senso noi li chiamiamo reloaded, ricaricati, con sempre maggiore potere rispetto all'offerta. In una certa percentuale i marketing manager rilevano questo tipo di importanza. Tuttavia alcune difficoltà culturali legate essenzialmente alla percezione circa dell'opportunità di aprirsi verso il cliente, il privilegiare il fatto di operare in un'atmosfera controllata, tiene il freno a mano tirato delle imprese. Esiste questa consapevolezza, c'è voglia, ma si aspetta. Forse il top management è un pochino restio. Nessun anno come il 2009 ha modificato le dinamiche di acquisto. Il modello di consumo è radicalmente cambiato. Quali effetti ha avuto la crisi anche sui consumatori multicanale? Ancora noci. Di fatto la crisi ha portato il consumatore multicanale ad ricercare con sempre maggiore attenzione quelle che sono le offerte alternative, quindi un consumatore che diventa sempre più attento al cosiddetto value for money, non solo e non tanto la ricerca di un prezzo basso, ma la ricerca di una convenienza to cure in senso allargato. In questo senso la crisi ha influito. In secondo luogo è aumentato in relazione alla crisi il tempo disponibile, quindi il tempo speso non solo davanti alla TV ma anche sui nuovi canali, e questo ha portato ad avere una sempre maggiore consapevolezza del mondo dell'offerta. Abbiamo consumatori, e dobbiamo ormai averlo come dato di fatto, che sono sempre più informati e che avranno capacità di scelta sempre più rilevanti rispetto al passato. Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di uno strumento di promozione che nei supermercati non ha rivali, nonostante sia il più vecchio. Volete far arrabbiare il direttore marketing di una catena di supermercati? Parlategli di volantini, cioè di quell'insieme di pagine stampate che illustrano la politica commerciale dell'insegna in quella settimana o in quei 15 giorni. Si arrabbierà perché più o meno sa quanti ne stampa, più o meno sa quanti ne distribuisce nelle caselle della posta, sa quanto gli costano, più o meno una montagna di soldi, ma non sa se i soldi spesi vanno davvero a buon fine. Si arrabbierà moltissimo anche quando gli chiederete se ha studiato un'alternativa, perché di alternative non ce ne sono. I costi sono alti, la stampa lascia desiderare, specie per i prodotti freschi, molti clienti entrano nel negozio agitando il volantino quasi fosse quella la vera lista della spesa, e per molti lo è davvero, ma nessuno capisce quante vendite il volantino riesce a indurre. Secondo le ricerche di mercato, comunque, più del 50% dei consumatori guarda sempre il volantino che riceve a casa, la percentuale sale e di molto per gli anziani. Un italiano su tre, grazie ai volantini, compara i prezzi delle varie insegne. Un po' meno del 60% decide dove fare la spesa anche sulla base delle offerte promozionali del volantino, e addirittura il 10% dichiara agli istituti di ricerca di decidere dove fare la spesa proprio studiando il volantino. Come si vede a queste poche note, lo strumento di comunicazione principe dei supermercati è il tanto bistrattato volantino, che lo si voglia o no, che faccia arrabbiare o no i direttori marketing e tant'altro. Ma se qualche ascoltatore ha studiato una soluzione alternativa, si faccia sotto, perché gli si aprirà una miniera d'oro. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze, in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Il tema della puntata di oggi ha a che fare con le nuove frontiere del marketing, sempre più legato al ruolo da protagonisti dei consumatori. Oggi le opinioni dei consumatori, il cosiddetto reviewing, hanno potere di vita e di morte sui sui prodotti. Gli operatori del settore lo hanno capito e hanno trasformato o stanno cercando di trasformare tutto ciò in una strategia commerciale. Se vi piace questo, comprate quest'altro. È una delle formule più usate nel cosiddetto pop marketing. È il potere della raccomandazione, dicono gli esperti. Patrizia. Nel reviewing va fatto un distinguo. Infatti siamo di fronte a una doppia scena. Abbiamo le recensioni dei consumatori, ma anche le recensioni e le raccomandazioni fatte dai marchi, quindi direttamente dalle aziende. I consumatori provano il prodotto e dicono fidati, l'ho provato, o al contrario evitalo e segue la lista dei motivi contro, quindi sulla base dell'esperienza fatta del prodotto o del servizio. Le aziende, i marchi ci dicono fidati, io ti conosco, se ti è piaciuto questo mio prodotto o servizio ti piacerà o ti piacerebbe anche quest'altro, e quindi ci danno ulteriori consigli per gli acquisti. Queste due tipologie di recensioni hanno naturalmente un peso, un'influenza diverse, perché c'è una simmetria diversa, ma questa equazione delle preferenze, all'insegna appunto del se ti piace allora, rientrano e ne rappresentano anche un'evoluzione nella dinamica del passaparola messo in atto da sempre dai consumatori, quindi consigli, raccomandazioni, messe in guardia tra pari, tra amici, che appunto conoscendosi bene si danno delle dritte sicure. Quando viene adottato da chi vende, diventa un modo per avvicinarsi a noi consumatori da parte di marchi e aziende, per dimostrarci che le nostre preferenze, il nostro sistema di gusto, i nostri stili di vita sono noti, sono mappati, sono coniugati o coniugabili coerentemente con prodotti e servizi offerti che, guarda caso, di volta in volta ci vengono segnalati per affinità tematica con il nostro profilo di acquirenti. Questa funzione del marketing è ormai piuttosto consolidata. Pensiamo ad Amazon, che la usa con successo incrementale dal 2000. Amazon è la libreria online per cui se si compra un libro di ricette o sul cibo ci viene segnalato qualche altro titolo, ma poi ci viene anche detto tutti quelli che hanno comprato questo libro come te hanno anche preso, e magari ci viene segnalato un libro di teologia o di musica, di heavy metal o qualsiasi altra cosa. Pensiamo anche al servizio di posta elettronica di Google, Gmail, che fa apparire inserzioni pubblicitarie in tema con i contenuti dei nostri messaggi, per cui se parliamo di arredobagno ci comparirà un pop-up, una piccola inserzione pubblicitaria in tema. Pensiamo anche a Yoox, ma anche altri siti di e-commerce multimarca di moda e di design, che suggeriscono capi e accessori sulla base di quello che si sta visionando o del nostro percorso di acquisto. D'altra parte, i social network funzionano proprio con criteri di raccomandazione professionale o sociale. Quando siamo su un social network e ci esce la segnalazione people you may know, se conosci questa persona allora potresti conoscere anche quest'altra, e questo funziona sia per LinkedIn, quindi contatti professionali, ma anche per tutti gli altri social network basati appunto su amicizia o su altri tipi di interessi, di totem. Un tema centrale di questa dinamica è quello della serendipity cosiddetta, cioè su raccomandazione di un altro consumatore di cui ci fidiamo o del marchio di cui ci fidiamo, usciamo dai nostri percorsi di ricerca che usiamo per trovare quello che stiamo già cercando, che sappiamo di stare cercando, e invece scopriamo qualcosa di non cercato. Poi gli esiti dell'esperienza saranno positivi o negativi e sarà sempre il consumatore a giudicare e ad attribuire valore. Quindi il concetto chiave in ogni caso rimane quello del consumo, che influenza il consumo. E dicevamo poco fa del passaparola, appunto, soprattutto online, che è la nuova leva su cui puntare. Si chiama buzz marketing, da buzz, chiacchiericcio, oppure warm marketing, dall'espressione inglese word of mouth. È il marketing del passaparola. Contagioso e immediato, si basa sulle recensioni e sui suggerimenti dei consumatori, che, dicono le statistiche, determinano sempre di più le decisioni d'acquisto. Il problema sta nella trasparenza, che di recente la Federal Trade Commission, l'agenzia che si occupa di salvaguardare le regole del commercio negli Stati Uniti, ha imposto. Altrimenti si tratta di pubblicità occulta, denunciano da tempo le associazioni dei consumatori, citando in molti casi di falsi fan di prodotti e marchi. Sovvenzionati dalle aziende, lanciano il sasso nelle conversazioni in rete e, grazie alla potenza che solo i nuovi media sanno avere, la chiacchiera diventa vero e proprio spot. Su blog e social network, dicono le nuove regole, la pubblicità si può fare, ma lo si deve dire. In pratica, bisogna rivelare sempre per conto di chi si sta parlando. Lo impone anche il codice etico della Word of Mouth Marketing Association, l'associazione di professionisti che si occupano di marketing del passaparola in rete, di cui esiste anche una filiale italiana. Patrizia, il tema è molto dibattuto. C'è chi parla di regole inutili, sostenendo che la rete è talmente potente da smascherare da sola in pratica i falsi. Fatto sta che il sistema delle recensioni ormai si applica non solo ai beni di consumo, ma anche ai servizi. Negli Stati Uniti, faccio un esempio, sono molto gettonati i siti che assegnano le pagelle agli ospedali. Sì, ricordiamo il progenitore di questo sistema di reviewing, il notissimo TripAdvisor, legato al settore viaggio, leisure, hotel, accommodation, che appunto è un grande aggregatore di recensioni appunto di consumatori che segnalano in positivo o in negativo le esperienze fatte. Sono diversi i modi nei quali brand e aziende declinano e fanno uso del reviewing dei consumatori, quindi questo applicato appunto non solo ai prodotti ma anche ai servizi. Tu citavi gli ospedali. Adesso, tornando nel mondo dei consumi, farei questo esempio molto interessante da Tokyo, Ranking Ranquin, che è una catena di negozi giapponese che ha basato addirittura l'assortimento sulla classifica dei prodotti più venduti o più votati dai propri consumatori, ognuno nella sua categoria, e vengono aggiornate ogni settimana. Questa catena ha fatto proprio un sistema industriale di questa modalità di dichiarazione delle preferenze da parte dei consumatori. Gli oggetti che non rientrano più tra i primi 5 o 10 più venduti, quindi che escono dalle classifiche, vengono immediatamente sostituiti proprio fisicamente in negozio dai nuovi entrati. Questa tipologia di retail, molto interessante, anche molto nuova, è proprio la manifestazione fisica della, potremmo dire, consumocrazia, quindi la cosiddetta customer made orientation, e ci dice del grande potere delle valutazioni del consumatore. Tu dicevi potere di vita o di morte, di un approccio partecipativo al consumo che rende appunto il consumatore sempre più potente. L'idea alla base di questo concept è l'autodeterminazione dei consumi da parte degli individui, che però va ridetto, sono sempre più esperti, sempre più informati, quindi questo potere deriva dalla loro stessa voglia di partecipare come prosumer al mondo della produzione, al mondo dell'offerta, e che allo stesso tempo forniscono sempre più informazioni sulle proprie scelte, sulle proprie preferenze, sui propri motivi di acquisto. Un'altra declinazione delle catene associative del se vi piace è quello del sampling, cioè l'uso dei cosiddetti campioncini. Quindi non solo se ti è piaciuto questo allora ti piacerà anche questo, ma un ulteriore passaggio: se ti è piaciuto questo mio prodotto allora ti farei provare quest'altro, oppure perché non provi qualcosa di diverso. Quindi non un semplice consiglio per gli acquisti, ma un invito a provare fisicamente quello che viene suggerito, non sempre necessariamente col criterio dell'affinità tematica o della coerenza logica. A Tokyo, per esempio, ci sono sample store, negozi di campioncini, bar, ma anche vending machine, che usano proprio questo criterio della prova di prodotti nuovi e di servizi anche lontani dall'universo del gusto del cliente mappato. Il primo si chiama Sample Lab, aperto 2 anni fa e subito copiato in molte città del mondo, è stato seguito poi da El Café, un caffè tutto al femminile per un target di giovanissime donne nel quartiere di Shibuya. Aggiunge i campioncini al menù, quindi si entra, si consuma, si fa una sorta di try before you buy e addirittura ci si porta via il prodotto. Frequentato da consumatori che hanno voglia di sperimentare e recensire nuovi prodotti, El Caffè è diventata una vera piattaforma molto evoluta per il marketing esperienziale, perché in fondo sempre di quello si tratta anche in tema di reviewing, si tratta di esperienza. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Barcellona su Pop Marketing dintorni? Con le nostre Urban Watcher di Memi torniamo a parlare nel dettaglio di un'iniziativa che è un po' il sogno di tutti i consumatori. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buongiorno. E sì, siamo a 2 passi dalla centralissima Plaza Catalunya, dove alla fine dello scorso anno ha aperto i battenti il primo negozio no cost gratuito d'Europa. si chiama Es lo último, che in spagnolo vuol dire è l'ultima tendenza, e come dicevi tu promette di realizzare il sogno proibito di ogni consumatore, ossia fare shopping gratis. In realtà un esborso, seppur simbolico, c'è. Si tratta di una quota associativa di 5 euro, valida per 6 mesi. Il pagamento si può effettuare sia nel negozio stesso, sia online, su Facebook, e si ha così la possibilità di accedere una volta al mese alle offerte e scegliere a piacimento 5 prodotti a costo zero, motivandone la scelta. L'offerta spazia in tutti i settori merceologici, unica limitazione è il non poter ripetere l'acquisto di uno stesso prodotto più di una volta. L'affluenza di pubblico è stata ed è incredibile, si può stare in coda anche per 4 ore prima di riuscire ad entrare, tanto da costringere i responsabili, per l'esattezza una società spagnola che si occupa di ricerche di mercato, a diradare le modalità di accesso. Società che comunque conferma l'intenzione di aprire a breve uno store gemello a Madrid e nel corso di quest'anno succursali nelle principali capitali europee. L'operazione si sostiene e si alimenta grazie al passaparola, come dicevate, che si genera intorno alle novità offerte dai brand presenti in negozio. Brand e aziende che, anziché investire in comunicazione, promuovono i loro prodotti regalandoli e interagendo in modo diretto con il consumatore, ricavandone preziosi feedback. Grazie Alessia, tra l'altro si dice, lo avevamo anticipato qualche settimana fa, che l'iniziativa nel 2010 potrebbe arrivare anche in Italia, l'aspettiamo tutti fiduciosi. Patrizia, in conclusione, come sempre ti chiedo di tratteggiare gli sviluppi futuri ipotizzabili per questa tendenza. Ma dunque, da sempre il marketing ambisce a conoscere sempre più intimamente le preferenze degli individui consumatori, mapparle e usarle per proiezioni predittive su consumi futuri, facendo uno scenario un po' futuribile quasi su questo sistema di raccomandazioni di cui stiamo parlando. Tutto ciò potrebbe evolvere verso uno scenario anche un po' alla Minority Report, ricordate, famosissimo film, quindi entrando in un negozio o visitando un sito ci potrebbero venire offerte le cose corrispondenti alle nostre preferenze di quel momento. Potremmo arrivare a quello che un grande autore di fantascienza aveva definito il personality download, cioè il trasferimento della nostra personalità, del nostro sistema di gusto sui supporti digitali. Quindi a quel punto il sogno del marketing potrebbe avverarsi: sapere quello che ci piace e offrircelo. Finisce qui anche questa nuova puntata di Ripasso, chiamiamola così, di Essere e Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast per scaricare questa come tutte le altre puntate. In attesa di risentirci come sempre domenica prossima, scriveteci anche le vostre critiche, i vostri suggerimenti, soprattutto in previsione delle nuove puntate in preparazione per settembre, a essereavere@radio24.it. Un saluto e buon Ferragosto da Maria Luisa Pezzali.